riferita alla situazione che vede un aumento di alcuni episodi di violenza che riguardano i ragazzi minorenni, ma non solo questo, ci sono anche molti episodi che si riferiscono proprio anche ad atti di autolesionismo, insomma ci sono ragazzi, sono aumentati gli ingressi nelle neuropsichiatrie, ci sono insomma un'espressione di grande disagio psichico e sicuramente anche che sfocia in atti di violenza che sono in aumento, così come sono in aumento quindi le denunce. Questa cosa sì, mi preoccupa molto, l'avevo sinceramente prevista dopo 2 anni di chiusura, di ragazzi soprattutto, e di chiusura della socialità che per tutti noi è molto pesante, ma per un ragazzo lo è ancora di più e quindi sono molto preoccupata perché non soltanto per la sicurezza, per un senso di sicurezza generale in cui tutti quanti abbiamo un diritto di vivere, ma proprio per il disagio che questi gesti insomma mettono in luce, un disagio marcato che riguarda una categoria così fragile come gli adolescenti. Prima ricordavo anche le tue esperienze professionali e proprio da questo osservatorio ti chiedo se hai avuto modo anche appunto di capire cosa spinga giovani, giovanissimi a violenza e anche atti di nichilismo e autolesionismo. È abbastanza facile, almeno pensavo che lo fosse, intuire che una comunità che si dovrebbe definire una comunità di cura, una comunità che si prende cura, intendendo per comunità la nostra città, per esempio, cioè deve comprendere che ovviamente il disagio causato appunto da una chiusura violenta di relazioni, di luoghi di sport, di cultura, di la scuola stessa, insomma, ovviamente chiudere dei ragazzi che per definizione hanno bisogno proprio di crescere incontrando gli altri, confrontando se stessi, così proprio gestendo, imparando a gestire le proprie emozioni nella relazione con gli altri, tutto questo ovviamente ha messo insomma fortemente in crisi il loro sistema di sviluppo ed era prevedibile che questo succedesse. La salute non è solo salute fisica, è salute psicofisica e secondo me chi ne ha fatte in modo particolare le spese sono i bambini e i ragazzi, naturalmente i genitori, certo. Tutto questo io penso che sia una cosa abbastanza chiara, è una dinamica insomma che abbiamo visto prima della pandemia, nel senso che bisogna offrire ai ragazzi delle risorse, cioè proprio prendersi cura di loro, offrire delle risorse di socialità, e quindi invece toglierle completamente porta poi a delle esplosioni di rabbia, cioè c'è stato un pezzo di sviluppo emotivo che è mancato e non so come si potrà recuperarlo, anche perché non mi sembra che si sia ancora in questa dimensione di progettare un recupero della loro crescita, della loro educazione. Ecco, poi semplicemente chiudere i ragazzi in casa, per esempio, ha portato ovviamente a una diminuzione di reati durante il periodo del Covid, però quello che si è verificato sono state le violenze in famiglia. Adesso che sono fuori, i ragazzi o appunto agiscono contro gli altri o contro se stessi. Ti chiedo un giudizio su quello che invece è il mio lavoro, il nostro lavoro, cioè se a tuo modo di vedere la stampa, l'informazione sta approcciando questo problema dal lato giusto e quali impatti il modo in cui vengono raccontati certi episodi possono avere sui ragazzi stessi. Sì, io credo che in generale il vostro mestiere, il tuo mestiere, come insomma tanti dicono, sia veramente tanto delicato, perché ovviamente aiuta a così percepire certe cose anziché altre. Poi è chiaro che i dati oggettivi sono dati oggettivi, però così come si può insistere su un argomento, si può insistere anche su un altro. Se lo scopo è quello di creare un allarme sociale, perché così, cioè ovviamente questo aumenta il senso di insicurezza per poi adottare misure che possono essere soltanto di controllo, tutto questo insomma ovviamente ha un taglio particolare. Io ci starei molto attenta, perché abbiamo già visto che cosa può succedere se si criminalizza un pezzo di società. Piuttosto direi proviamo appunto a cercare di capire, di comunicare le cose in un'ottica di cura, di prendersi cura delle delle persone, della società, e quindi capire che cosa succede, usare i termini giusti. Baby gang è un termine sbagliato, per esempio, proprio dal punto di vista tecnico, invece si usa spesso questo termine. È un termine sbagliato perché le baby gang sono dei gruppi che si ritrovano e che hanno come unica finalità quella di commettere una serie di reati. Invece in questo caso sono spesso gruppi che si formano occasionalmente e che decidono di passare il tempo sfogando appunto quello che hanno accumulato in tanti mesi. Bisogna fornire una risposta alternativa. Io veramente spero che la stampa si renda conto che bisogna trattare le cose nel modo giusto, perché altrimenti si creano false comunicazioni e un allarme sociale e una criminalizzazione di categorie, e in questo caso non se lo merita nessuno, ma men che mai adolescenti.